Letture di Radio 24. Edgar Allan Poe, noto per i suoi racconti del terrore, era in realtà un autore poliedrico, in grado di spaziare tra i generi letterari più diversi, dalla poesia al racconto umoristico, dai saggi filosofici alla satira. Un tema narrativo che accomuna alcuni racconti scritti tra il 1833 e il 1849 e ora riuniti per la prima volta in un'unica raccolta è quello del viaggio immaginario nello spazio e nel tempo. Esplorazioni di luoghi reali o irreali che portano lo scrittore di Baltimora a tracciare una sorta di mappa della cultura occidentale, con tutte le sue sfumature e contraddizioni. Uno dei racconti più interessanti di questa raccolta, opportunamente intitolata I viaggi immaginari, è L'uomo della folla, dove il protagonista, reduce da una lunga convalescenza, si trova in uno stato d'animo positivo che lo porta a osservare la realtà senza pregiudizi, per il puro desiderio di conoscere. Così, trovandosi in una strada affollata di Londra, si mette ad osservare la gente e ad analizzare le varie sfaccettature dell'animo umano di fronte alla propria solitudine. All'inizio, le mie osservazioni avevano avuto un carattere astratto e generalizzante. Consideravo i passanti come una semplice massa e li guardavo nei loro rapporti collettivi. Ben presto, però, ero sceso nei particolari e mi ero messo a esaminare scrupolosamente la varietà innumerevole di figure, vestiti, atteggiamenti, andature, visi ed espressioni. La maggior parte di quelli che andavano e venivano aveva di gran lunga l'aria soddisfatta degli uomini d'affari a cui va tutto bene e sembrava intenta solo a farsi strada attraverso la calca. Le persone avevano la fronte aggrottata e i loro occhi giravano rapidamente. Se qualche passante le urtava, non mostravano nessun segno di impazienza, ma si sistemavano i vestiti e continuavano per la loro strada. Altri, anch'essi molto numerosi, irrequieti ed eccitati, parlavano tra sé e gesticolavano come se si sentissero soli proprio perché circondati da tanta moltitudine. La tribù degli impiegati era facilmente distinguibile e si divideva, come i notai, in due categorie. C'erano i giovani impiegati di imprese equivoche, dai vestiti attillati, dagli stivali lucidi, dai capelli impomatati e dall'espressione sprezzante. A parte una certa disinvoltura di portamento che, in mancanza di un termine appropriato, potrebbe essere definito impiegatizio, i modi di queste persone sembravano la copia esatta di quella che era stata la perfezione del bon ton 12 o 18 mesi prima. Avevano l'eleganza fuori moda della piccola nobiltà e questa, a mio parere, è la definizione migliore che si possa dare alla loro classe. Poi c'era, ed era difficile sbagliarsi, il gruppo degli impiegati di grandi aziende o dei vecchi tipi affidabili. Si riconoscevano dalle giacche e dai pantaloni neri o scuri, di taglio ampio, con cravatte e panciotti bianchi, scarpe comode e robuste, calze spesse e ghette. Avevo notato che si toglievano e rimettevano il cappello sempre con una mano o con l'altra e portavano orologi con catene d'oro corte, massicce e antiche. La loro era un'ostentazione di rispettabilità, ammesso che ci possa essere un'ostentazione così degna di onore. I giocatori d'azzardo, che non erano pochi, erano ancor meglio riconoscibili. Indossavano ogni genere di abito, da quello del bullo furibondo del gioco dei bussolotti, con panciotto di velluto, cravatta fantasia, catene d'oro e bottoni filigranati, a quello dell'ecclesiastico, scrupolosamente spoglio di ornamenti e di cui non potrebbe esserci nulla di meno sospettabile. Si distinguevano anche per una certa abbronzatura, lo sguardo appannato, le labbra smorte e serrate. Scendendo ancora nella scala di quella che è chiamata nobiltà d'origini, avevo trovato temi di speculazione più oscuri e profondi. Avevo visto robusti mendicanti di strada di professione che guardavano imbronciati altri mendicanti di stampo migliore, che solo la disperazione aveva spinto nella notte a chiedere la carità. Ragazze modeste che tornavano da un lungo turno di lavoro alle loro case squallide e che schivavano le occhiate dei mascalzoni sfacciati più con tristezza che disprezzo, di cui non potevano evitare il contatto diretto. Donne di città di tutte le età e specie, la bellezza inequivocabile nel pieno rigoglio della femminilità. La vecchia signora rugosa ma ingioiellata e imbrattata di trucco, nel suo ultimo sforzo di apparire giovane. La semplice ragazzina ancora acerba ma già avviata per il lungo contatto con il mondo della prostituzione, alle civetterie terribili del suo commercio, e divorate dall'ambizione di eguagliare le veterane nel vizio. Ubriachi innumerevoli e indescrivibili, alcuni tutti stracci e toppe, barcollanti, scoordinati, con il viso livido e gli occhi senza luce. Uomini che camminavano con un passo fermo ed elastico, più del naturale, ma i cui visi erano spaventosamente pallidi, gli occhi orrendamente rossi e selvaggi, che afferravano con le dita tremanti, man mano che a grandi passi attraversavano la folla, qualunque cosa fosse a portata di mano. Tutta una folla vivace, rumorosa, disordinata, che colpiva l'orecchio per la sua disarmonia e dava all'occhio una sensazione dolorosa. Avete ascoltato alcuni brani dal racconto di Edgar Allan Poe, L'uomo della folla, tratto dalla raccolta I viaggi immaginari, esplorazioni stravaganti e impossibili in giro per questo e altri mondi. Gargoyle Editore, 326 pagine, 17 euro. Il top manager che lavora 14 ore al giorno pensando di dare un esempio di dedizione all'impresa, in realtà rischia di rovinare la sua stessa azienda, oltre alla vita dei collaboratori, dato che antepone la quantità alla qualità. È la tesi sostenuta dal consulente del lavoro Ernesto Ciorra, che come soluzione propone vacanze forzate per i malati del lavoro. Un top manager che sistematicamente rimane in azienda 13 o 14 ore al giorno è un individuo socialmente pericoloso e distrugge valore d'impresa. Infatti diventa un inconsapevole sequestratore di anime, perché i suoi collaboratori si sentiranno in dovere di imitarlo, di solidarizzare con lui nell'autoesclusione dal mondo reale. Egli antepone la quantità alla qualità del lavoro. Spesso si circonda di persone che rimangono con lui solo per fargli compagnia, nella speranza di fare carriera, e che sono realmente produttive per poche ore. Quel top manager, con il suo presunto esempio di dedizione all'impresa, rischia di rovinare le vite dei propri colleghi, che si trovano costretti a non coltivare più i propri interessi e le proprie passioni, a non trascorrere più del tempo con i propri cari, a impoverirsi in sentimenti ed emozioni, in nome di una presunta priorità nell'allocazione del tempo alle ragioni dell'impresa. Quel top manager non si rende conto che con il suo comportamento non solo sta rovinando la vita dei propri colleghi, ma sta anche andando contro gli interessi della propria azienda. Infatti, quest'ultima ha bisogno di persone creative, in grado di pensare in maniera diversa, di proporre prodotti nuovi e di innovare. Nel mondo di oggi, in cui la ricerca di efficienze di processo e la riduzione dei costi sono pratiche diffuse e comuni a tutti i player sul mercato, e quindi non differenziali, solo persone creative e in grado di far accadere ciò che intuiscono potranno creare le premesse per un vantaggio competitivo sostenibile e difendibile nel tempo, fondato sulla capacità di innovare sempre e di essere un passo avanti agli altri. Ma persone che non hanno più tempo per sé, che limitano le loro relazioni extra aziendali e dunque si sono impoverite nelle emozioni e nei sentimenti, come dimostrano tutti gli studi di psicologia sul tema, diventano meno creative, più omogeneizzate e povere intellettualmente, meno in grado di innovare e di creare i presupposti per un'impresa che crei valore in modo duraturo. D'altra parte, solo la curiosità del mondo reale e la sua continua frequentazione, le emozioni positive che questa concede, l'accostamento di matrici culturali diverse, in sintesi, il vivere la vita a pieno, garantiscono la generazione delle scintille di creatività che possono rendere ricche le aziende. Dunque, chi limita queste possibilità, recludendo se stesso e i propri colleghi, non fa gli interessi dell'impresa. E allora controlliamo i nostri top manager e se scopriamo che vivono troppo tempo in azienda, invitiamoli a una vacanza forzata, privandoli però di cellulari e tablet con cui potrebbero, anche da luogo di villeggiatura, continuare a tenere i propri collaboratori lontano dalla vita vera, quella vita che è una magnifica fonte di ispirazione, in grado di riservarci ogni giorno un'inattesa scintilla, suggerendoci un nuovo prodotto, un nuovo modello di business, un nuovo amico o un nuovo amore. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il capo staccanovista è controproducente di Ernesto Ciorra, fondatore della società di consulenza Ars et Inventio, da Panorama del 19 settembre.